Crossover. Note senza confini. Un programma di e con Paolo Travagnin. Carissimi amici di Crossover, Note senza confini, un impetuoso Aleger dal vostro Paolo Travagnin e benvenuti in questa ennesima riproposizione dei vostri lavori, delle vostre proposte che ci arrivano costantemente qui in redazione. E se volete informazioni, ma ancor più se volete commentare, disquisire, suggerire sulle nostre proposte, potete contattarci al 06 69 88 3792, oppure usando il numero verde 800 208 802. Crossover è la trasmissione fatta da te e anche per te. Se hai proposte interessanti ed originali, fatti sotto. Visita il sito www.icebergnews.it. Troverai tutte le indicazioni di cui hai bisogno per essere protagonista. Quando nei tuoi occhi brilleranno le luci dell'acqua nel mare più profondo. Dietro me lo ti nascondi, allontani le tue ombre, sentinelle annerite dal fumo di un fuoco sconosciuto. Sommerso da mille miglia di mare, trattengo il respiro pensando al domani, una giornata passata a sfiorarti, finché la pioggia laverà le mie foglie. Sono strade percorse senza trovare una porta da aprire, solo un muro da sfondare. Accendi i tuoi occhi perché il tempo passa, non devi svegliarti, solo sognare, non devi aspettare che il treno arrivi, già sei salita. Guardami in faccia, davanti a me mille miglia di mare, da attraversare sempre più facile, una giornata passata a rubare i frutti lasciati cadere dal vento. Da mille miglia di mare, trattengo il respiro pensando al domani, una giornata passata a sfiorarti, finché la pioggia laverà le mie foglie. Come vedi, sto aspettando fino a quando brilleranno le luci dell'acqua del mare più profondo. Marco Di Battista in regia, Paolo Travagnin al microfono di Crossover, Note senza confini. 06 6988 3792 è il telefono giusto per chiamarci, oppure potete eseguire l'800 208 802. Crossover ti dà voce. Continuano le proposte musicali di Crossover, Note senza confini. Se volete far parte della nostra selezione, potete inviarci il materiale, le vostre proposte, visitando il sito www.icebergnews.it. Crossover ti dà voce. ca nasciu lu bambino, lu verbo divino per noi si incarnò. Alla notte di Natale ca nasciu lu bambinetto, di lu munno salvatori, di lu Cristo redentori, di lu munno salvatori, di lu Cristo redentori. Che nato lo Salvatore, hai nascito lo Messia, già la razza di Maria. Se noi utili pastori, adorare lo Signore, e su santi su rose sciuri, viva viva lo Salvatore. E su santi su rose sciuri, viva viva lo Salvatore. Salvatori di lo Cristo Redentori, di lo mondo Salvatori di lo Cristo Redentori, di lo mondo Salvatori di lo Cristo Redentori, di lo mondo Salvatori di lo Cristo Redentori. Paolo Tramagnini ai microfoni di Crossover, Note senza confini. Se volete informazioni o ancor più commentare, disquisire, suggerire sulle proposte musicali di oggi, potete contattarci a music@vatiradio.va oppure 06 69 88 3792 oppure 800 208 802. Thank you. Siete all'ascolto di Crossover, Note senza confini, al microfono Paolo Travagnin, in regia Marco Di Battista. Contattateci per essere presenti sull'etere. Thank you. Crossover, Note senza confini ed il sottoscritto Paolo Travagnin si congedano da voi. Vi ringrazio della vostra cortese attenzione, ringraziamo naturalmente l'onnipresente Marco Di Battista in regia per la parte tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un focoso Aleger dal vostro Paolo Travagnin.